di ripartenze, esposizione nudi al pubblico sulla pubblica piazza con tanto di lancio di pomodori ed eventualmente anche taglio dalle mani e dalla testa, la gente continua a guidare col telefonino, felice, contenta, insomma fa i cavoli che vuole. E quindi è chiaro che per ogni cosa, quello se ne va in discoteca col peperoncino perché è molto di moda rompere le scatole alla gente, spostarla negli occhi, l'altro dà una pugnalata all'amico dicendo che in fondo se lo meritava e lo uccide. La gente è fatta così, io non so se tu esci, se vai un po' in giro a guardare come la situazione, ma veramente siamo in una mancanza totale di valori, di educazione, di tutto, perché guarda, sono cose allucinanti che si vedono, ma proprio da imbecilli. Quindi le leggi ci vogliono, purtroppo, però noi abbiamo l'enorme problema che non sono applicate, perché se ogni giorno a colpo sicuro, senza se, senza ma, ti pizzicavano col telefono in mano e ti cancareggiano le mani, sta tranquillo che prima o poi qualche cosa sarebbe ottenuta. E invece non ce n'è, non va a fare più niente a nessuno, quindi c'è una specie d'anarchia, ecco, molto pericolosa, che fa star male tutti. Però è inutile allora fare leggi restrittive e non applicarle. Per esempio, in fin dei conti, a questi che hanno spruzzato il peperoncino la volta del concerto, dell'audizione di Sfera e Basta, lì, quel Pirla e Basta, quel rapper, cosa gli hanno fatto agli autori, visto che è morta gente? Cosa gli hanno fatto i veri autori, agli spruzzatori, potremmo dire? In fin dei conti, cosa gli hanno fatto? Si sa qualcosa o si sa e non si sa? Perché i giornalisti di loro sparano delle boiate, non riportano mai la vera verità. Questo è un altro problema che abbiamo in Italia ed è un problema anche molto serio, perché si sa come inizia, però in quasi tutte le cose poi non si sa come finisce. E uno lo può solo immaginare, comunque non, a prescindere non finisce bene per tutti, perché tu pensa, se è vero come è vero, che spesso una lettera solo a livello di condominio, per intenderci, dall'avvocato te la fanno pagare anche 300 euro, figurati cosa significa avere una sentenza in cui ti devi difendere dall'aver fatto qualche cazzata in tribunale. Quindi capisci che in ogni caso anche la vittima, cioè anche l'autore di queste bravate, chiamiamole così, va incontro a dei guai che però il guai non fa notizia, capito? E lì è errato. Io vedo certe sentenze negli Stati Uniti, eccetera, in cui se non ti alzi, ti rivolgi in maniera corretta al giudice, ti partono anche 2 anni in più di galera, non è che c'è tanto da scherzare, perché la magistratura fa paura, comunque è autorevole, capito? Cioè se a te ti mandano in tribunale devi stare attento anche a come parli, a volte infatti gli avvocati mi dicono se stia zitto parlo solo io, capito? Eia. E lì c'era, che ne so, tentata strage, non so, poi c'è molta gente, quindi magari cosa gli avranno dato, i domiciliari seppure, non si sa, io non ho capito come è andata a finire, anche perché i giornali quando la cosa è fresca fa notizia, cioè ne hanno parlato per una settimana di continuo, forse anche di più, poi però si sa sempre come cominciano, infatti e come, non come vanno a finire. E poi ci sono gli idioti, i mentecatti che fanno emulazione e spruzzano lo stadio, e spruzzano lì un altro concerto, ma poi gli stessi presenti, no, coetanei, non li possono pestare, fraccare di botte, no, alla fine nemmeno i diretti, quelli che ci passano fanno niente, un po' di... Ecco una storia di che quando c'è una rissa, no? Anche scolastica, no? I due che si picchiano, meglio uno che le prende malamente, l'altro che lo massacra le botte, tutti invece di separare, riprendono con i telefonini, capito? Ridono poi. E poi la notizia di ieri, quando era, uno mi pare, non so se sia mezzo finito sotto un treno, caduto da dove, sempre in zona treno, no? E niente, sghignazzavano i ragazzi, i ventenni, i venticinquenni, sghignazzavano, non è che rimanevano colpiti, sconvolti dalla cosa, come magari rimarrei io vedendo uno che finisce sotto un treno che precipita dall'alto, no, loro sghignazzavano, facevano battute, questa è gentaccia, è uno schifo di gioventù questa. E vabbè, e poi rispetto già ai tempi miei a scuola, non, si è data troppo libertà a tutti. Adesso per dire, sulla mia, già dall'elementare la maestra scriveva nella pagella, aspetta com'è il termine, un po' disattento, com'era? Indolente, se tu ora come ora vai a scrivere su una pagella di un alunno indolente, i genitori, qua in lesa maestà, partono denunce contro il genitore, contro l'insegnante, ma vaffanculo, una volta gli dicevano alla maestra, mi raccomando, si comporta male, due schiaffoni, poi il resto glielo da casa io, capito? Adesso no, guai a toccarli, loro possono far tutto ma non possono essere toccati. E vabbè, discorsi fatti e rifatti, poi anche al baracchino mi Gianfra. Purtroppo sì, solo che adesso ce ne accorgiamo, perché noi stiamo subendo praticamente l'onda lunga del cosiddetto 68. Nel 68 ti ricordo che quelli che adesso hanno una certa età, all'epoca davano anche la droga ai figli, perché comunque non faceva male, perché comunque andava molto di moda, e tutti quanti erano fascisti, perché chi andava in polizia era fascista, chi era carabiniere era fascista, chi era militare era fascista, perché non faceva quello, perché opprimeva tutto, perché la droga era bella, perché tutti vivevano in pace, eccetera eccetera. Capito? Quindi questi valori, gente che ha quei valori, cosa credi che abbia riportato sui figli? Perché in fin dei conti, quando manca la famiglia, quando manca l'educazione, i valori sono zero. Fermo restando che per nostra grande fortuna ci sono tanti ragazzi che sono in gamba, sono diventati grandi, sono fatto una famiglia, gente, sono persone intelligentissime, oneste, però purtroppo in tutto questo ambaradan ci sono le pecore nere, quelle fanno notizie, e quello è il male anche, che fanno notizia solo chi usa il telefonino, che ne so, guidando, e poi ammazza anche i figli, e queste cose. Abbiamo visto quasi di tutto, non so oltre cosa potremmo vedere, perché tutti i casi possibili e immaginabili penso che li abbiamo raggiunti. No, vedremo molto di peggio, molto molto di peggio. Chi vivrà vedrà fra 30 anni, perché detto, noi da bambini non ci sognavamo, se un anziano ci sgridava per ovvi motivi, perché facevamo casino, lì dovevi stare zitto a non rispondere, guai se rispondevi, davvero, si contattava i genitori, capito? Succedeva, le buscavi bene o male, adesso picchiano i segnanti, se un anziano va a dire busca pure lui, da ragazzini mi, da merdaioli, come si diceva dei primi poletti. E vabbè, e poi figli di questi, è andato tutto a gradi, no? Da un randaggio, che figli possono uscire? E dai figli di questo qua, poi, dai figli dei loro figli, cosa ne uscirà? E va a peggiorare la situazione, capito? Infatti c'è un proverbio sardo che è tutto azzeccato, erba amara non i muri, quindi se la generazione continua, è un altro ancora più azzeccato, è quello che la mamma degli imbecilli è sempre incinta, ma è incinta a colpi di 4-5. Molto incinta, sì. Mamma mia, vabbè. Poi altre cose assurde. vabbè, fumare spinelli alle medie di allora c'erano già rari casi, ma venivano visti un po' come poco affidabili da non frequentare. Adesso è una cosa, adesso spacciano già le medie, violentano coetanee e poi riprendono con i cellulari, viene, perché è un obbligo riprendere qualsiasi crimine col cellulare. Ma poi ci sono anche dei minus abens, perché loro stessi, riprendendo il crimine e poi postandolo su WhatsApp, si autodenunciano. Cioè, uno può essere più mentecatto, no? Uno che fa un reato si autoriprende e poi lo diffonde, in modo che le autorità lo becchino prima. Ma infatti la meraviglia è anche quella, è che se tu vai a spostare il peperoncino in uno stadio e magari poi ammazzi 50 persone, non è che ci vai per l'atto in se stesso di buttare, per quanto gravissimo sia, di buttare il peperoncino e fare scappare tanta gente e provocare una strage. No, ci vai perché così sei col telefonino. Cioè le persone oramai si ritengono talmente poco importanti, la vita è anche talmente poco importante da acquisire quell'importanza mettendosi su YouTube, non pensando che poi il giudizio è severissimo e chi ha un pochettino il cervello ti prende per imbecille, proprio perché cosa devo dire ad una persona del genere? Quindi così, quello là, non so se te lo ricordi qualche mese fa, che cioè aveva i figli in macchina col telefono, stava guidando e faceva vedere quanto era bravo lui a correre, e i figli dietro magari erano pure terrorizzati, tant'è vero che poi si è sbattuto e sono tutti morti, cioè, ma sono cose... non ci pensa veramente, non ci sono valori, è quello il problema, neanche il valore della vita. Quindi io mi chiedo cosa puoi fare di più, qualcosa si trova sempre, però l'importante è che il telefono sia a carico, ecco, per poterlo riprendere. Sì, hai detto bene, l'importante è anche che il telefono sia a carico da riprendere. No, comunque questa storia dei telefonini è fantastica, anche questi che fanno crimini, no? Anche ragazzetti, no? Cioè non bastano già le telecamere che non puoi fare nulla, che ogni angolo di strada si riprende, in più lo riprendi, ma non solo, lo diffondi tramite WhatsApp e poi ricordati, una volta entrato in rete in qualsiasi canale social fa il giro del mondo, non c'è niente da fare, tu lo trovi su Emule, su... anche su questi mezzi Emule, coso, un altro torrent, non solo sui social, proprio Facebook, Instagram, tutto fa il giro. Quindi bene o male gli inquirenti prima o poi lo beccano il file e magari arrivano pure i responsabili, ci sono le facce, insomma. E poi c'è omertà, nessuno parla, cioè, tutti stanno zitti anche... c'è capito, no? Nessuno vede niente, alla fine si arriva sempre per vie traverse, anche grazie a telecamere e video. Vabbè, ecco il povero Cristo, che lo importunavano per strada, lo prendevano a calci, che poi l'hanno seviziato a casa sua, non mi ricordo il nome, poveraccio, uno che aveva un po' problemi mentali. Una cosa del genere poteva succedere a Paoletto Falcone decenni fa, per fortuna decenni fa c'era ancora un po' un freno, cioè i ragazzi non erano crudeli e impasticcati dalla mattina alla sera come sono adesso, sono bevuti e impasticcati, per cui se a volte pensi che siano anche non capaci di intendere e volere, quando fanno quelle cose non riesco a trovarmi spiegazione. Vabbè, così è, se vi piace, come ho detto prima Giulio, una frase che ha detto non so qual tale. Diciamo che in termini di probabilità penso che quello che ha detto proprio su Paoletto, se accadesse a 20 luci sarebbe veramente reale, sarebbe reale, ci sarebbe una mobilizzazione in termini assoluti. Già all'epoca, vedi, all'epoca si si denotava una cosa comunque che io ritenevo veramente scandalosa, ed era il fatto che certe persone che erano, io posso capire se fossero stati ragazzini, quindi senza cervello e che non sapevano praticamente cosa facevano, il fatto che c'erano dei padri di famiglia, noi sappiamo nome e cognome di chi erano le persone, quindi uno torna sempre al solito pensiero, ma se fa così con i figli degli altri, con i propri figli che ce l'ha tutti i giorni, di cosa farà? Punto di domanda, e sa benissimo quali sono queste persone, perché all'epoca c'eri anche tu e ne sentivi di tutti i colori. Noi? Chi è? Chi è? Luca, tu sei? Uia. Vabbè, lì, vabbè, ci sono anch'io, qualche portantina, poletto, qualche urletto gli ho fatto tirare, ma certe cose erano sistematiche, poi vabbè, ne abbiamo goduto tutti, nel bene e nel male, vabbè, ma per dire, non mi so spiegare, Gianfra, certe cose non ci passava nemmeno per la mente di farle, come hanno fatto quel povero disgraziato segregato in casa, torturato, ripreso con i cellulari ovviamente. Oggi non è un option, è un obbligo, è un dovere morale riprendere i propri spazi col cellulare. Buonasera Luca, avanti. Buonasera a tutti voi. Oggi sei in versione masculo, grande modulatore. Oggi sono in versione ad. Ok, chi c'è? Da parte, vabbè, Gianfranco, poi. Ciao Gianfranco, avanti. Ciao Luca, purtroppo io ti sento con grave difficoltà perché senti saturo quasi. Sembro saturo, e ora? Un pochettino più basso, poco a poco. Guarda adesso, ora un po'. Sì, sempre molto forte, però se allontani la voce migliora immediatamente, proprio, non so se sia solo da me o se sia anche da Marco. Marco, per te, ok, quello che sto dicendo. Vabbè, io lo copio perché forse è quello che è molto stretto, di diciamo sì, un po' fine e metallica la modulazione, però capisco, dai, non capisco, magari gli mancano un po' di bassi, no? Già capito, no? Vabbè, l'apparato è un certo apparato, no? Cos'è quello? 48? No, questo è Typhoon 2, ora un po' che è abbassato. Allora guarda, se io metto, questi sono i watt, poi l'amplificazione, vedi, se io l'aumento, no, se io metto come la prima, ma mi risulta a zero, no, watt a zero, aspetta un attimo, TT un po' difettoso, adesso è a mezzogiorno la macchina, guarda un po'. Ma qua va bene, però per Gianfranco com'è? Ma ti ripresenta che a volte c'è anche un segnale più forte del tuo, Marco, e di nonno tu sei tra i più forti, di perché arrivano qua. E per me rimane sempre un pochino troppo amplificata, si potrebbe dire così, dai. Ma se lui si allontana migliora di colpo, eh? Qua più di così no, qua sono distante 30 centimetri circa. Sì, adesso va bene. Se parli magari un pochino con un rivolto un po' più basso, magari, ecco, per dire, se di lì ci fosse Claudio con la sua voce, che lui già va benissimo con i microfoni normali, praticamente sarebbe superfatto. Sto parlando tranquillo, tranquillo e sereno. Tranquillo e sereno. Magari sai cos'è, se tu stai usando una radio professionale magari ricevi un po' diverso, capito? L'altro radio ce l'ho giù dalla 25, quella usavo qua. Oh Gianfra, qua c'era anche Giulio prima, Olu, abbiamo parlato da 5 e mezza forse, giusto. No, ti vorrei dire, Gianfra, di prima, no, di Paoletto, non ho seguito bene il discorso, ho detto, o tutti magari, grandi o meno grandi, un po' l'hanno fatta dirare, ma lui ha detto certe frasi al baracchino, no? Di qualcuno che l'aveva portato fuori, dice, stesso riparo di Paolo, ha detto, ti ricordi quella volta che ti sei spogliato nudo nell'erba? Ah, te la ricordi? Io non so cosa abbiamo tentato di fare, gente del latte dolce. I nominativi non si fanno, però latte dolce. Che ne so se qualcuno ha tentato di fare il bis di quello che aveva fatto un certo Giuseppe Serra, non si sa, anche perché poi non erano tutte raccomandabili le persone al baracchino, non si può dire altro, cosa, non c'ho altro, anche più di così non potrei dire, Gianfra. Purtroppo Marco, la gente era quello che era, quindi non è che c'è, uno ci si meraviglia più di tanto, ecco. Era così e basta. Intelligenti erano loro, il furbo era loro, chiunque ci dava sotto perché aveva trovato, all'epoca si diceva il soggetto, no? Oggi si direbbe in una maniera un po' più semplice la vittima di turno, perché poi se non trovavano lui trovavano qualche altro comunque, perché il gioco funziona così, no? Se ne sceglie sempre uno, l'anello più debole, su quello poi colpiscono, però è così. Poi negli anni 80, inizi 90 c'era la truppa del massacro, no? Ogni tanto era un gambero, ogni tanto era un Sandokan, che adesso ogni tanto, mamma mia, vabbè, però per chi non era coinvolto era divertente ascoltare, ma per chi ci passava era un po' meno divertente, diciamo. Si parla sempre roba solo via radio e ogni tanto distruggevano qualcuno, mettendosi peraltro d'accordo in VHF a 147 mega, poco sopra la banda amatoriale, lì c'era la cerchia, no? Mi mica entra in digitale, io ho pigliato il culo, no? Tutti i radiatori, forse tutti i radiatori, alcuni lo erano già, o lo stanno inventando. Beh, adesso comunque con le leggi attuali ci sarebbero gli estremi per li avrebbero fatti finire anche dentro, probabilmente. Oggi ci sono molte leggi che all'epoca non c'erano, poi se addirittura ho fatto in radio, ma peggio che mai, quindi è così. Poi c'è un'altra cosa piuttosto interessante, anche dal punto di vista psicologico, diciamo così, che poi a guardare bene, no? Chi erano queste persone? Vedi che erano persone più messe male anche di Paoletto, per me quello lì almeno c'era una famiglia che lo teneva a bada più o meno e cercava di gestirlo. Da ora invece erano gestiti da loro stessi, ma poi se guardavi le persone, insomma, c'era da dire poverini loro. Erano autogestiti, diciamo, dai. Vabbè, comunque anche allora, mi già fa 146, cioè dopo i 146 amatoriali era già assegnato per il Ministero della Difesa quella porzione, quindi non è che prima fossero, magari erano amici degli amici, nessuno gli ha toccato niente. Se lo faccio io oggi a parlare 147 MHz o 146 spiccioli, mi bussano dopo 10 minuti. Ma non lo so, tieni presente che c'è tutte le risorse sono verso proprio quelli imbecilli che parlavamo prima su YouTube, sui social, e quindi lì c'è già un lavoro ciclopico, quindi ci mancano solo andare a caccia di questi qua, a meno che non sia cosa grave. Niente, è così, avanti Luca, finita l'estate mi sa, beato te che almeno al mare ci è andato, io quattro volte contatto, niente Luca non c'è, si è già stufato. Sì, poi c'è anche la cose, il problema è che ci andavano di lì senza sapere che, ciao, senza sapere chi c'era, chi non c'era, c'era gente d'ascolto. Tu figurati che quasi nessuno sapeva che ancora un pochino più in alto, ma di poco, c'erano i giallo-verdi lì, che non è la Lega, Le fiamme, abbastanza più in alto però. Oh, poi, vabbè, ti parlo per le mie conoscenze basilari. Lì doveva arrivare all'epoca ai 153 più o meno, no? Più o meno. Quello perché tu sentivi sempre i ponti, ma tu fai quella civile, fai quella lì e devi sottrarre 4 e qualcosa. Loro 148, 149, per intenderci, no? Quindi erano più che vicini. Ah, i ponti, in Grecia c'è questa ponte, chi lo sa, non saprei, sono passati troppi anni, e poi io non ascoltavo nulla, io solo radioamatori, solo radioamatori mattina, sera e notte. Vabbè, poi c'è chi dice di no, no, io mai ascolto, poi senti la selettiva di fondo, vabbè, va bene. Vabbè, comunque niente di fatto, ne hanno sempre fatte le cose all'epoca, ma nessuno poi, va bene, basta. È stato sempre gente, ma era preparazione. Comunque se ben ti ricordi all'epoca, se non se la prendevamo con paletto, poi si affaravano tra di loro, perché c'era sempre la solita donna in mezzo ai piedi. Comunque non è gente, adesso voglio specificare, perché non è gente che parla con noi attualmente o che, insomma, non è gente che entra più, ecco. Non è gente che entra più, comunque sì. No, dimmi, la donna, quale, ogni tanto c'erano bisticci anche per donne o tra donne, mogli in CB, coso, adesso di quale, fammi un esempio. Non siamo lì a fare esempi, che sarebbe anche, però c'erano sempre le solite donne in cui ci andava più di uno, e uno credeva di andarci da solo, poi invece scopriva che non ci andava più da solo, e così tric e track succedevano le varie cose, no? E poi, siccome erano anche molto intelligenti, che volevano far sapere le cose agli altri, e quindi capito, succedevano anche quelle cose lì. Quindi, come vedi, bastava la scintilla per creare, magari qualcuno ha anche bevuto, quante volte sentivi gente che era alterata dal fumo all'alba. Ah, ho capito, sì, della serie che dovevi prendere il bigliettino per fare la fila, tipo alle poste. E purtroppo, i maschietti, quello era l'intento, quando andavi a conoscere una nuova, sicuramente c'era sempre qualcosa sotto, no? Cioè, non andavi per farti un'amica, per conoscere una nuova amica, per tentarci. Poi mi ricordo che c'erano i corteggiatori leggendari dell'epoca, non si fanno nomi, ma corteggiatori seriali, capito? Si tentava con tutte, ma manco io mi ricordo i nomi, ma comunque non se ne fanno. No, giustamente sì, c'è il peccato, ma non il peccatore, ma d'altronde poi è noto, non è che è così. Tutti spariti, tutti, non si sa che fine hanno fatto, se sono in libertà vigilata o se stanno ancora scontando qualcosa, boh. per carità. Sì, adesso poi però la situazione è molto più drammatica, perché la massa di imbecilli si è spostata sui social e da lì, e a tutti i livelli, a tutti i livelli, perché ieri anche oggi, credo, se non sento male per il giornale, ce l'hanno adesso con una ministra, prima perché non c'aveva il titolo di studio, poi perché si è messo l'abito sbagliato, secondo me c'era un abito normale, ma sai, la gente si attacca a tutto, anche se c'è un taglio di capelli particolare, se la prendono con te, e questi se l'hanno presa con questa ministra che poveraccia nessuno conosceva neanche, quindi veramente poi andavo a vedere chi erano insoliti, per carità del cielo, guarda. Sì, poi sembra un mezzo questo di social per insultare chiunque. Se c'è un odio bestiale, ho sentito di uno che è stato beccato dalla SLA, mi pare in Sardegna, ma qui lo dico, qui lo nego, stava facendo una sua battaglia per quelli nella sua condizione, e lo stesso social ha ricevuto minacce, non minacce, auguri di morte, che tu possa crepare presto. Che intaccia è questa? Che bisogna essere proprio figli di nessuno per insultare uno che già è condannato di suo con una malattia, eppure lo fanno, odiano tutti. Anche giornalisti, gente di spettacolo, questa, adesso ti dico il termine con cui la chiamano, Gretina, no? Greta Thunberg, questa contro, appunto, per la salvaguardia del pianeta. Di tutto hanno detto, ritardata mentale, pazza, solo perché poi è portatrice di, non mi viene quello che ha lei, una cosa lieve, no? Mannaggia, all'Alzheimer, non mi viene il termine. E tutto di più, hanno fatto di tutto per, proprio questa, si batte così del pianeta, vabbè, lì c'è roba dietro, no? Si sa che la madre ci ha fatto un libro sopra, poi ci sono vari personaggi che ci lucreranno molto, questa storia dell'ambientalismo, però non puoi dare la colpa a una, quanti anni ha, 16 anni, che poi c'è anche quella piccola sindrome, quella appena percettibile, che magari non ti accorgi che ce l'ha una persona, Gianfra, illuminami. Non viene neanche a me, adesso non me la ricordo qual era la malattia, cosa ti volevo dire, anche lì c'era, io mi ricordo invece un'altra persona che aveva parlato male di, credo che avesse detto di farsi affari suoi, di ballare a quello, di ballare a quell'altro, che sarà presa con Papa Giovanni Paolo VI, quello che c'aveva poi l'Alzheimer, se non ricordo male, quello che c'era prima di, praticamente di Papa Francesco, di Ratzinger, quello che c'era prima di Ratzinger, che è Umberto Bossi. Poi ha visto cosa è successo, no? Tutto torna indietro, tipo effetto boomerang. Ma... allora, sindrome di Asperger, che poi può essere più pronunciata o meno pronunciata, oppure non puoi addirittura non accorgerti di niente che una persona ce l'ha. A questo punto potrei avercela anch'io, visto che certe volte non sono molto brillante un po' nei rapporti sociali. Me la puoi chiamare malata mentale, pazzoide, schizzata, ma gente cattiva, non so, cattiva proprio. E quella è lontano da casa, ha l'attenzione del mondo, insomma si sente importante. Diciamo, io ho scritto questo su YouTube a una persona, non prendetevela con lei, prendetevela con chi ci sta dietro, con chi ci guadagna e chi ci guadagnerà, a partire dalla madre, anche per presentare il suo libro, un po' ha lanciato la figlia in questa campagna ambientalista improvvisa, disperata, imponente, come la vuoi definire, quegli altri che ci guadagneranno, in un modo o nell'altro ci guadagneranno, alle spalle di questa ragazzina che magari, chi lo sa, magari lo fa pure in buona fede, spero per lei che sia così. Sì, però adesso, giusto per averlo conto, se tu sai, adesso c'è una ragazza più grande che è l'anti-Greta e quindi che parla più di viceversa, dice che non succede niente, che gli acciai non è vero che stanno sciogliendo, che anche se si sciolgono non succede niente, che se, insomma, di tutto di più, perché loro sanno tutto, capito? Tutto al di fuori di quello che dice la scienza, sanno. Quindi niente, è un disturbo tipo quello autistico, però un po' meno, ma insomma non è questo granché, si può vivere anche con quello lì, e fa impressione il fatto che la gente, pur di scrivere, scriva anche quello, ecco. Cioè le malattie, quelle così, sono cose personali e come tali devono essere trattate, mentre invece questi cani rabbiosi si attaccano a tutto, capito? Anche se poi qualche volta incontrano l'osso sbagliato, si avvelena. E così, vista dal di fuori, è una cosa molto miserabile, ecco, molto, molto penosa. Di queste persone, comunque c'è anche questo, è così. Ehi, sì, sindrome di Asperger può essere, diciamo, una persona che in effetti non è molto empatica con lo stato d'animo degli altri, cioè non capisce quando uno è un po' triste, tipo così, non riesce a cogliere bene lo stato d'animo degli altri, oppure non capisci l'ironia, per esempio se uno fa una battuta ironica, no, una cosa magari si offende, non coglie tutte quelle sfumature che coglie un, potrei dire, normodotato, ma se dico normodotato dicono che sia razzista, no, perché no, adesso quasi inutile, non, va bene, non mi so spiegare bene io, ma quasi se parli di una categoria quasi stai disprezzando le altre, ormai stiamo arrivando a questi livelli, vabbè, è tutto lì. Può essere più marcato o meno marcato, magari io ho visto anche interviste su YouTube, certi erano un po' tipo Toma, e cioè rispondevano telegraficamente, non capivano le battute, e insomma non avevano anche, come dire, il buon senso di non dire certe cose in certi momenti, ma di farti rimanere male, no? Capito? Vabbè, comunque, così, la situazione, quella è più o meno la cosa di Asperger. Ma addirittura persone anche note dello spettacolo, gente comunque storicamente, gente conosciuta, non si coglieva nemmeno quell'aspetto lì, lo sai, era talmente margine, talmente minimo che alla fine, vabbè, se vuoi dare tra i psichiatri qualsiasi lato dell'animo umano è una cosa psichiatrica, lasciamo perdere. Sedere tra loro qualsiasi manifestazione in umano ha un riscontro in psichiatria, pigliate da posto. Capito. Bene, detto ciò, esaurito un po' l'aria pure, fammi pigliare piatto, vai, Rigio. Qualcuno ti direbbe tipo paletto. No, comunque a parte poi tutti questi discorsi, malata, incapace, eccetera, eccetera, non bisogna mai ignorare il punto vero della faccenda, che che è purtroppo il fatto che quello che dice è vero. Semplicemente la gente si dovrebbe concentrare con quello e non sulla malattia. E tant'è vero che alla carica è tornato subito un altro bel imbecille, perché chissà perché ultimamente gli imbecilli li seminano sempre in posti importanti, verrà di Trump, verrà di quel presidente lì che si ritrova al Brasile. Quindi stanno incendiando di tutto e di più, come dire, per curarti il raffreddore te ne tagliano il naso, e il raffreddore comunque non te l'hanno curato. Ah, ma mi sfugge il nome, aspetta, io ero rimasto a Lula, che mi pare, poi non so se ha passato anche Casini, non mi viene il nome, non mi viene. E poi questa storia di riscaldamento globale, stanno facendo un teatrino tale, eppure ci sono stati comunque nel corso dei secoli e dei millenni, dei periodi in cui il pianeta era molto più caldo, è come intorno all'anno 1000, c'era quel periodo che ha permesso peraltro ai vichinghi di farsi tutta costa a costa, di Coso, Groenlandia e poi approdare nel Labrador, e lì all'estremo nord, se non ci fosse stato questo riscaldamento temporaneo, non avrebbero potuto fare tutto quel viaggio, sarebbero probabilmente morti assiderati molto prima. Insomma, ci sono stati tanti, adesso questo, certo, una volta non c'erano fabbriche e tutto, però chi mi dice che non sia uno di quei periodi in cui il pianeta non si scalda, si sciolgono più ghiacci e poi fra qualche decennio, non so quanto durino, se decenni o centinaia di anni, questi periodi di riscaldamento o di raffreddamento anche del pianeta, ci sono stati periodi molto molto freddi, particolarmente freddi nella storia, per quanto sia documentabile, no, insomma. Da quando hanno inventato la scrittura è documentabile, poi prima no. Oppure con metodi scientifici si possono determinare questi periodi. E vabbè. Insomma, stanno facendo un po' sto teatrino. Poi l'hanno criticata in ogni modo, anche. Dice, l'unica svedese bassa, alta, un metro e non ti dico cosa, dice. Immagino che anche in Svezia ci siano quelli bassi, non saranno tutti 1,90, d'altronde i sardi dice, si dice siano bassi, ci sono dei marcantoni da 1,95 anche da noi, ma insomma attaccano tutti e in qualsiasi modo, è un gioco al massacro, è una cosa su tutto, per esempio i fan Xiaomi distruggono i fan Huawei o Samsung. Così come tutto, gli utenti Android fanno a pezzi gli utenti iOS, iOS e viceversa. L'importante è avere un nemico, non lo so, in qualsiasi campo, in qualsiasi modo di pensare, allo stadio si ammazzano. Allo stadio si ammazzano per degli uomini in mutande che tirano calci a palla, tutto, no? Sì. L'importante soprattutto non dimenticarsi di premere il tasto per poi mandarlo in rete, ecco, tutta questa cosa. E, no, invece ti volevo dire una cosa riguardo a quello che hai detto prima, che non è molto esatto. È vero che ci sono stati dei picchi particolari, ma sono stati solo dei picchi. Vedi, la natura di quello c'è una cosa che può essere diciamo variata e in senso peggiorativo, dubito che lo faccia in senso migliorativo ultimamente l'uomo, da parte dell'uomo. E cosa sta succedendo? Che molti pensano, ma in fondo c'era prima, che questa sia una cosa naturale, come poteva essere quello che ha citato tu dei Viking. Purtroppo la cosa non sta esattamente così, è molto ma molto ben diversa, tieni presente che oggi abbiamo i satelliti, abbiamo gli scienziati fortunatamente, a cui però a quanto pare nessuno dà retta, cioè abbiamo anche delle stazioni di lì molto sofisticate, tra cui una anche italiana, in Antartide e anche al Polo Nord e anche al Polo Sud e fino a Meta. Poi già abbiamo le statistiche che partono più o meno da 1800, quindi insomma uno può fare già un metro abbastanza preciso di quello che sta succedendo. Il fatto è che la gente non ci crede, perché sì, vabbè, però a me che me ne frega, il concetto è quello, non pensando che su quella terra poi ci abita anche lui. Però vedi, di tutti questi discorsi, una cosa è certa, che la natura intesa come evento non è per niente. Tu fai così e vuol dire che ti becchi l'uragano, tu continui a far così e vuol dire rimanere senza acqua. È molto semplice, inquadra l'uomo, cioè l'essere umano, come nemico. E con i suoi tempi, che tra l'altro hanno notato che stanno diventando sempre più brevi, sarà distrutto, cioè morirà. Quindi se tu ti leggi le stime fatte da scienziati, quindi fatte con calcoli matematici, che insomma hanno un certo valore di previsione abbastanza attendibile, io ti dico che la situazione non è tanto bella. Prima si pensava di dover lasciare l'eredità ai propri nipoti, adesso forse sarebbe meglio parlare di lasciare l'eredità cattiva ai propri figli. E quindi, come vedi, i tempi sono molto stretti. Io naturalmente non sono contro l'ecologia, ci mancherebbe. Da bambino praticamente l'ho vissuta tutta in campagna, all'aria aperta. Infatti rimpiango quegli anni. E poi sì, rispetto ai tempi dei vichinghi, la rivoluzione industriale, fabbriche, insomma, veleni liberati nell'aria, nell'acqua. E giustamente quando il clima impazzisce, poi ci sono gli effetti che vediamo, tra uragani, tifoni, quella roba lì, insomma. Poi vabbè, in certi film, sono film, però chi lo sa, mi aveva colpito quel film, com'era? Il titolo era inglese, perdonami, The Edge of Tomorrow, insomma, faceva vedere che praticamente il clima impazziva a tal punto che si interrompeva in fare la corrente che passa, mi pare, nell'Atlantico. Vabbè, insomma, ci formavano macrocelle in tutto l'emisfero boreale. C'era una specie di glaciazione quasi improvvisa. Poi bisogna vedere se sono condizioni davvero che si possono verificare a quei livelli. Però mi era piaciuto come film. Non mi chiede i nomi degli attori, ti ricordi che praticamente c'era quasi una glaciazione in tutto l'emisfero, no scusami, no, australe, boreale, l'emisfero nord. Sì, sì, sì, me lo ricordo perfettamente, faceva parte di quella serie di film catastrofici e che fino a fine metta. C'era, credo, quei ragazzi erano con la città, che erano totalmente nel ghiaccio, il ghiaccio aveva assunto delle forme abbastanza alte, le città erano praticamente sommerse. Ma in realtà un'esagerazione così è difficile da immaginare, perché il punto è diverso, capito? È fuorviante una cosa del genere. E bisogna pensare che la natura ha i suoi tempi, e quindi un evento così rapido, quello lì era successo in termini di settimane, perché c'era quello che era monitorava le boe. Tu parli delle correnti atlantiche che sono molto, molto costanti, no? C'hanno un nome particolare ma non mi viene, e se vai variano, quelle effettivamente succede un casino e quattro ne bastano. Così succede un casino e quattro ne bastano se manca la foresta amazzonica, perché in quel caso lì saremo colpiti dal punto di vista del CO2, quindi il CO2 sostituisce l'ossigeno, perché non c'è più la capacità del pianeta di praticamente filtrare l'anidride carbonica, il che significa morire soffocati. La seconda cosa che ti volevo dire è che la gente non si accorge che in realtà questi fenomeni si stanno compiendo, sono lenti, ma ci sono alcuni atolli nell'oceano che praticamente sono scomparsi, ci sono già popolazioni che stanno sgombrando. Certo, noi ce ne accorgeremo di rimanere a bocca aperta quando succederà a Venezia, però chi vivrà vedrà, non è che debba vivere tanto per vederla. Allora qua vabbè, ho beccato la prima foto che mi capitava, corrente del Golfo, no? Ci vedono correnti che passano da sud, da nord, insomma un delicato equilibrio lì. E se viene a mancare quello, sì, un po'. Mi pare il titolo in italiano era L'alba del giorno dopo o qualcosa del genere. Sì, praticamente gli studenti si erano rifugiati nella biblioteca di New York, no? Che poi è finita sepolta nel ghiaccio. E mi ricordo che il padre di questo ragazzo, no? Aveva usato dei modelli, no? Di glaciazioni preistoriche, no? Per capire cosa sarebbe successo, no? Quando hanno applicato questi modelli, dice non è possibile che succeda tutto questo in pochi mesi, e mi pare che una gli ha detto, cioè no, guarda che questa scala non è in mesi, è in settimane, era rimasta libito, no? Cose che succedono magari in secoli, no? Vabbè, molto estremizzato quel film, però chi mi dice che in determinate condizioni con l'aria avvelenata, non si arrivi davvero a cose simili, o comunque è disastroso per l'uomo. E poi il bello, che anche se l'uomo sparirà, la natura probabilmente si riprende, si aggiusta tutto e il pianeta ritornerà bello verde, senza l'uomo che infesta la terra con tutto quello che ha fatto, sì, di progresso, di coso, ma alla fine quasi poetica la cosa, no? La natura si riprenderà, cosa prenderà il sopravvento sull'uomo che farà il favore di sparire, di estinguersi. Eh sì, e soprattutto si estinguerà per merito suo. Io non so se tu hai mai seguito le trasmissioni scientifiche proprio sul tema. Si sta verificando una condizione, tu sai che a volte la fantascienza spesso finisce di essere fantascienza e diventa realtà. E anche in questo caso non si sta smettendo. Quel film diceva, come hai detto tu, prima erano anni, poi sono diventati mesi, poi settimane. Io mi auguro che non ci arrivi a settimane e neanche a mesi, però ad anni ci sta arrivando. Se tu segui quello che sta succedendo in Europa e anche in tutto il mondo, se vogliamo, perché qui la cosa è globalizzata oramai, dal punto di vista termico risulta che ogni anno praticamente c'è il record di temperature, quindi prima era il 2016, poi è diventato il 2017, poi il 2018 e sempre di più, adesso è il 2019, quindi è prevedibile che il 2020 sarà ancora più caldo del 2019. Se tu ti ricordi quelle giornate, io per dirne una che mi ha meravigliato, dentro la mia macchina, che di norma rimane al sole, però fino adesso ci è rimasto tranquillamente. Quest'anno ho trovato i microfoni, il cordone dei microfoni disintegrato. Tieni presente che sono microfoni a nome 1000, cioè riuscito a sbriciolarmi il cavo spiralizzato che dall'apparato porta al microfono, proprio con le mani, sono togliavi, sono microfoni che costa 80 euro uno ed è palmare, non è neanche un amplificato. Capisci che qualcosa che non va, cioè gli adesivi che attaccavano alcuni oggetti liquefatti, uno rimane un po' perplesso su questi eventi. E ce ne sono tanti altri, che la gente fa finta di non vedere, però capita, spesso devi cambiare i cavi che sono fuori, perché traduciscono immediatamente o perché si dilatano in maniera sproporzionata. Insomma, tante piccole cose che messe tutte insieme fanno un po' riflettere, ecco. E comunque in piccolo, quando avevo 6-7 anni, 8, insomma, mi ricordo le primavere, vabbè, l'autunno, soprattutto la primavera che si usciva di più, era più costante. C'è primavere belle, tiepidine, bel tempo, adesso c'è o perturbazioni, sempre freddo, fino all'ultimo, finché poi arriva un caldo soffocante. Oppure giornate anche in primavera dove certi giorni un freddo boia, che devi uscire col golfo, con la giacca, il giorno dopo devi uscire in maglietta. Scombinatemi, prima era, per il poco che posso ricordare, una cosa un po' più costante. Adesso non si sa mai come vestirsi, da un giorno all'altro, mi ricordo, soprattutto nelle stagioni intermedie, perché poi in estate, poi alla fine fanno 30 gradi fissi, tranne qualche picco di calore, però troppo caldo e troppo costante, capito? Mamma mia! Infatti io quest'estate, anche la scorsa estate, speravo in un bel maestralino che portasse un po' di freddo, e invece sentivo un giorno dopo l'altro 30 gradi, 33, 34, 35, troppo, vabbè, già hai capito, adesso non voglio stare a dilungarmi. Sì, ma quelli sono tutti gli eventi che piano piano escono fuori. Gli scienziati, tra l'altro, che hanno le stazioni di controllo dai rilevamenti satellitari e anche da quello che stanno vedendo nel ghiaccio, stanno dicendo che sta creando un effetto, diciamo, di amplificazione, perché in realtà, benché si veda anche il ghiaccio sciolto nei ghiacciai, le punte delle montagne che diventano rocciose e non più innervate, si sta verificando un altro fenomeno, e questo nei poli. Praticamente l'acqua del mare, che è più calda rispetto al passato, sta scavando sotto i ghiacciai, perché crea praticamente un effetto di amplificazione degli eventi, quindi si scioglie ancora più ghiaccio, il ghiaccio che scioglie diventa acqua calda e contribuisce a scaldare l'altro ghiaccio. Insomma, un circolo vizioso talmente pericoloso che penso che la famosa punta di non ritorno ci siamo vicini, non più come decenni, ma come anni, quindi dopodiché non c'è più niente da fare, c'è proprio da assistiamo allora a un vero film di fantascienza, perché ci sarà la gente che utilizza magari i bunker nucleari per che ne so, pieni di provviste, per campare qualche anno in più. Tra l'altro già si vocifera che tra un paio d'anni saremo costretti a non uscire di casa. Sai cosa significa? Che è come che ci sia il coprifuoco, perché se esci con il rischio di contrarre una malattia oppure di estenuarti praticamente. Ecco, non basta quello che speriamo. Vabbè, io un po' per così dico la mia simpatia per quelle cose, maschere antigas, no, quelle cose lì. Cioè, alla fine, in determinate condizioni che si vengono a creare, non so se sopravvivere sia vantaggioso, piuttosto che fare una vita miserevole, forse è meglio morire subito. E quelli americani sono molto fissati, alcuni americani, con questa storia di prepper, bunker, provviste, lo stesso maschere antiche, tutto l'occorrente in caso di guerra atomica, poi alla fine cosa... per vivere come i topi sottoterra, prima o poi le provviste finiscono, magari fuori non trovi più niente, come infatti, tutto molto aleatorio, tutto molto relativo a me. Sì, ho detto bene, aleatorio, la vita del topo così, solo per vedere quello che succede, stando attenti a non uscire di casa, è presente che poi molte di queste cose in realtà le sapevano, cioè erano già stati avvertiti, però figurati che sono stati resi noti tramite Wikileaks, no? Quello che ha diffuso documenti segreti, che c'erano anche dei rapporti della sicurezza nazionale americana che già prevedevano un grosso pericolo dal punto degli eventi climatici. Sai, gli americani sono un po' fissati, no? Loro cercano di prevedere meteore, prevedere questo o quell'altro, e c'è un dettagliato rapporto sul pericolo proprio che avvenisse quello che sta avvenendo. Però su quello non era proprio, se ne sono fregati, non era stato nessun ascolto. Purtroppo non è fatto così. Guarda, io quando avevo 12-13 anni, degli studenti di un'università avevano realizzato questo film che tutti conosceranno, The Day After, no? Io non ricordo se l'avevo visto al cinema, addirittura all'Ariston, perché io mi ricordo la locandina, o l'avevo visto in TV, però mi ricordo uno schermo grande. Parlava di un conflitto tra USA e URSS, no? Sai, scoppiati per motivi più o meno futili, sai. Uno ti tira uno schiaffo, tu gli dai un pugno, quello ti tira fuori il coltello, tu la pistola, e vanno a finire così. E mi aveva impressionato abbastanza, per l'età che avevo, no? Poi all'epoca c'era la guerra fredda, chi c'era all'epoca? Coso? L'ex attore, mannaggia, non mi vengono i nomi. Era periodo di guerra fredda, i primi anni 80. Reagan. L'altro non me lo ricordo. Non mi ricordo chi c'era. Insomma, la situazione era un po' tesa, sai, ogni tanto. E vabbè, un po' così, ma adesso lo guardo, non mi coricano anche il pelo quel film, The Day After, però in prima visione, soprattutto in tenera età, un pochino mi ha un po' impaurito, ecco. E adesso c'è di peggio. altro che film, povero di noi. Dove c'è il nostro astronauta, una stazione spaziale, e godersi il panorama degli incendi che vedono anche dallo spazio. Quindi pensa tu che proporzioni di disastro che stanno combinando. L'uomo è una brutta bestia ed è autodistruttivo, è palese. Basti vedere certi condomini, senza andare lontano. E vabbè, e così sono le nazioni, capito? La natura dell'uomo è quella. C'è qualcuno che vuole entrare? Ho sentito un minuscolo tocco di portante avanti. Niente. Quando parli di le cose un po' così, di attualità, non partecipa nessuno. Luca, come? È entrato un minuto e si è buriato. Ma perché, ma è tipico, la gente pensa ai problemi immediati, ecco, poi quello che succede. E così, cosa vuoi fare? D'altronde stanno facendo tutti i orecchi da mercato, se hanno fatto. Però questa sarà la prima volta in cui tutti si dovranno confrontare con qualcosa di nuovo, ecco, con qualcosa di diverso, che non è conciliante, non è che dice va bene, mi arrendo, alzo le mani, ma con qualcosa che va avanti e basta. cioè vedere quello che l'uomo pensa sia un suo dominio, un suo potere, scardinato dalle forze della natura che lui stesso ha provocato. E quindi è così. Va bene Marco, la chiacchierata ce la siamo fatta e adesso è venuta l'ora di salutarci, di andare a vedere un po' cosa succede nel mondo, cose brutte sicuramente, speriamo di no. Ehi, aspetta, le 9:10. Ma io certe volte vengo criticato da mamma che guardo spesso film, come li chiama lì, surreali, no? Di fantascienza, di... Beh, ma non puoi stare a vivere solo il telegiornale, no, non basta tutto lo schifo che senti di ammazzamenti di donne, di cose, di ammazzano figli, cose. Certe volte bisogna vedere dalla realtà e guardarsi un po' programmi di fantascienza, quello che vuoi, che sia Alien, che sia, che ne so io, qualsiasi cosa. Va bene, detto ciò, chiudiamo, dai. Ciao Gianfra, buona serata, buon tutto, ci sentiamo le prossime, dai. Non so quando, perché alla fine sto accendendo ben poco, ok? Ciao Gianfra, ciao. Ok Marco, accendi un po' di più, tanto la chiacchierata ogni tanto ci scappa, è giusto per dire che qualcuno c'è, se no poi almeno sfruttiamo un po' questi apparati, non sono come gli altri, io ho gli altri pieni, guarda, pieni di polvere, non fa neanche a spolverarli oramai. Vabbè, stendiamo un piatto di velo, dai. Ci sentiamo, buona serata e buona. Adesso l'ho iniziata l'attuazione, insomma, buona attuazione, dai. Vabbè, ciao Gianfra, ciao, buonanotte, ciao. Ciao, ciao. In vista ci andiamo noi e spuntano gli stranieri. Oh, non mi piacciono i DX con gli stranieri, mi piace più con gli italiani. Non so se c'eri giorni fa, c'era stata una giornata di propagazione eccellente, direi eccezionale per il periodo. Sì, a voglia che ce n'era, era dappertutto così. Sentiva la Spagna, la frequenza alta e come niente. Sì, era molto forte. Vabbè, scappo via. Ciao.